Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là dell'esito elettorale in Sicilia, di cui non parleremo, parleremo dei comuni italiani, perché sul Sole 24 Ore di ieri c'è una classifica molto importante, a mio avviso, che riguarda anche i comuni siciliani, ma non solo, di come alcuni comuni in questo paese rischino il crack finanziario. E fin qua uno dice, vabbè, ma sono soprattutto le scarse capacità di riscossione delle tasse, delle tariffe, delle multe a minare i bilanci di questi comuni. Quindi non è un elemento esterno, esogeno, che li condanna al crack, è anche un'incapacità amministrativa nel riuscire a riscuotere quello che devono riscuotere. Parleremo, per quello che riguarda la cronaca della giornata economico-finanziaria, in apertura, di quello che sta avvenendo non in Sicilia, ma al petrolio, nel caso specifico dell'aumento del prezzo del petrolio, e continua a essere ai massimi da 2 anni, ma la retata anticorruzione in Arabia Saudita, che ha coinvolto diversi esponenti in primo piano dell'aristocrazia della casa Saud, appunto, che regna in Arabia Saudita, ha creato ulteriore incertezza sui mercati. L'Arabia Saudita è il primo produttore di greggio a livello mondiale. Il barile è praticamente, quanto a Brent, è a quota $62.50, è arrivato quasi a $63, e anche il WTI, l'altro riferimento per il petrolio, è vicinissimo ai $60, e stiamo parlando dei livelli più alti, appunto, da 2 anni a questa parte. Quindi in questo caso un'operazione, diciamo, interna, anche di polizia vera e propria, l'ha voluta il re Mohammed Salman, 38 tra ex ministri, ex viceministri, uomini d'affari arrestati, e 11 principi arrestati. Ebbene, quello, c'è anche il principe miliardario saudita Al-Walid bin Talal, Al-Walid, ne abbiamo parlato altre volte, è uno degli uomini più ricchi al mondo, è importantissimo azionista di un colosso bancario come Citigroup piuttosto che di Twitter. Insomma, tra l'altro l'aeroporto per i jet privati di Riyadh è stato chiuso per prevenire le fughe dei miliardari, che di solito hanno anche il jet privato, e per evitare che scappassero prima dell'arresto. Ma al di là di questo, che potrebbe essere un'operazione, diciamo, un servizio di cronaca estera e null'altro, in realtà la ripercussione c'è anche sul prezzo del petrolio. Dopodiché parleremo anche qui, l'elemento è estero ma riguarda anche l'Italia, i nuovi papers, non si chiamano più Panama Papers ma insomma sono un insieme di documenti riservati sui comportamenti fiscali di personaggi noti, che ha ottenuto in primis il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, e li ha condivisi, come già nel caso dei Panama Papers, con i partners di quello che si chiama International Consortium of Investigative Journalism, pubblicati appunto in Italia, anche in Italia, e sono coinvolti nomi famosi, Bono, Vox, Madonna, Regno di Giordania, il finanziere George Soros, ma anche il ministro Donald Trump. Ne parleremo perché insomma sta succedendo di tutto, sono tutti investimenti in paradisi offshore, guidati, diciamo, aiutati da società che hanno questo come attività principale, se non unica. Bella tensione anche in Gran Bretagna, dove il leader laburista Jeremy Corbyn ha chiesto che la regina Elisabetta chieda scusa per il suo coinvolgimento in quelli che adesso si chiamano Paradise Papers. Chi utilizza paradisi fiscali danneggia la società. È venuto fuori infatti che anche milioni di sterline della regina venivano investiti e depositati in questi paradisi fiscali. E ci sono varie posizioni su questo. L'ONG Oxfam ha chiesto che i governi creino una blacklist anti-evasione, calcolando in 100 miliardi di dollari l'anno quanto i paradisi fiscali sottraggono, una cifra che, dice Oxfam, permetterebbe di salvare 6 milioni di bambini. In tale universo offshore vale una cosa ben più ampia rispetto ai 100 miliardi, le stime, diciamo. Il rapporto si chiama Tax Justice Network, stimano in 21.000 miliardi quanto sfugge, diciamo, nel mondo offshore. Stiamo parlando di una cifra, per dare l'idea, che equivale al PIL di un anno degli Stati Uniti e del Giappone messi assieme, e quindi della prima e seconda, insomma, economia a livello mondiale. E un terzo di queste somme, secondo lo studio, appartiene allo 0,01% più ricco del mondo, sono circa 90.000 persone, e è un ammontare in grado di alterare tutte le statistiche ufficiali sulla disuguaglianza. Ma insomma, lo scandalo poi avrà ripercussioni anche politiche. Parleremo come sempre dei mercati. Mercati che oggi sono sostanzialmente invariati a Milano, leggermente negativa a Parigi, meno 0,16, Francoforte invariata, Londra invariata anch'essa, Dow Jones invariato, praticamente non c'è un indice che abbia una variazione significativa tra quelli principali. Segnalo invece tra i titoli bene Yux Net-a-Porter in Italia più 3%, ST Microelectronics più 1,30% come Saipem, l'1,20% lo guadagna Luxottica, l'1% Italgas. Lo 0,90 Banca Generali, lo 0,60 Tenaris, Poste Italiane, Eni e Salvatore Ferragamo. Fronte opposto invece vede la presenza come calo più significativo di altri di titoli tra cui Prismian meno 1%, Buzzi Unicem meno 0,90%, ancora, ripeto, oggi il destino non è particolarmente mosso, una seduta abbastanza tranquilla, però dicevo, oltre a Prismian perde anche Campari meno 2,50, B per meno 1%, Buzzi Unicem meno 0,90 appunto, Moncler meno 0,70, Banco BPM meno 0,70, come Generali mezzo punto percentuale, il calo di Fiat Chrysler, e mezzo punto cala, perde anche UbiBanca. Euro su dollaro quota 1,15, quindi siamo anche sotto quota 1,16, 1,15,88. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e, come sempre, anche la diretta su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, qualcuno mi scrive già su petrolio e qualcos'altro, adesso arriviamo anche lì. Non sono contento se sale il prezzo del petrolio, anche perché, come abbiamo spiegato molte volte, l'inflazione che vorrebbe vedere Mario Draghi e insomma molti osservatori è l'inflazione buona, quella dei prodotti a consumo dovuta a un aumento del potere d'acquisto, un aumento dei consumi, non certo l'inflazione importata, cioè quell'inflazione che ti becchi anche se non stai consumando di più, perché aumentano i prezzi delle materie prime petrolifere, energetiche in primo luogo, e di conseguenza aumentano tutti i prezzi del trasporto e dei derivati del petrolio. Quella è l'inflazione cattiva, nel senso che non è il segnale di un'economia più vivace che porta delle tensioni sui prezzi, ma è solo il segnale che stai imbarcando, come si dice in gergo, importando inflazione. Comunque andiamo avanti e arriveremo anche al tema del petrolio. Dura la posizione del presidente americano Donald Trump a Tokyo, quando ha incontrato la comunità dei rappresentanti d'affari degli Stati Uniti e del Giappone nella sede dell'ambasciata americana, ha detto insomma gli Stati Uniti hanno avuto un deficit commerciale col Giappone per troppi anni, il trattato di libero scambio non è una buona idea e gli Stati Uniti continuano a non ricevere un equo trattamento negli scambi commerciali col paese del Sol Levante. Anche qui ne abbiamo parlato altre volte, insomma un conto è avere scambi diseguali, cioè dazi in maniera non senza nessuna corrispondenza con quello che viene nell'altro paese. Ce ne siamo occupati anche per i rapporti Europa-Cina su alcune materie prime, e abbiamo sempre detto che il campo da gioco deve essere uguale per tutti, quindi non hai dazi tu, non li abbiamo neanche noi, o viceversa, mettiamo dei dazi alle importazioni noi, li metti anche tu. Però attenzione, perché il ragionamento di Trump, secondo me, è un po' troppo semplice. Cioè la bilancia commerciale, certo che deve essere fatta a regole uguali per tutti e due i soggetti, però dopodiché non la stabiliscono solo i dazi o le regole, la stabilisce anche la qualità del prodotto. Per cui se gli Stati Uniti hanno avuto da tanti anni un disavanzo commerciale nei confronti del Giappone, è anche perché il Giappone, e non solo il Giappone, l'intera area asiatica, ha saputo esportare prodotti che gli Stati Uniti non sono riusciti a esportare. Ne abbiamo parlato molte volte, non è solo un problema di dazi. Certo che non puoi avere rapporti commerciali con un paese che ti mette i dazi, come è avvenuto anche in Europa con la Cina, mentre noi non abbiamo nessun tipo di difesa. A parità però di regole e di campo da gioco, è un'illusione pensare che, insomma, il deficit commerciale si verifichi solo e si possa riequilibrare solo con i dazi. Qualcuno mi dice sì, la seconda economia del mondo è la Cina, non il Giappone. È vero, noi usiamo una vecchia classifica, anche perché l'economia cinese ha dei dati assolutamente, insomma, che vanno presi con le pinze. Comunque diciamo che sia anche la terza, l'equivalente di quanto ammonta, è stimato essere nei paradisi offshore, vale come il PIL degli Stati Uniti e del Giappone, cioè della terza economia mondiale. Spostiamoci in Italia. L'Istat vede sostanzialmente un andamento del PIL marcatamente positivo anche a ottobre. Lo ha detto il presidente dell'Istat Giorgio Alleva in audizione sulla manovra. Oggi ci sono varie audizioni, fra poco sarà la volta anche della direttrice generale di Confindustria Marcella Panucci alle 18:15. Anche i sindacati oggi in audizione. Ha detto il presidente dell'Istat Alleva, insomma, continua a essere marcatamente positivo, anche migliore delle attese, l'andamento del PIL nel mese di ottobre. Guardando alle prospettive di crescita a breve termine per l'economia italiana, a ottobre l'indice del clima di fiducia dei consumatori è in leggero aumento, proseguendo la fase di salita iniziata a giugno. Nel complesso, l'indicatore anticipatore registra nel mese di ottobre una variazione marcatamente positiva, suggerendo dunque la prosecuzione degli attuali ritmi di crescita. E poi sulle pensioni, il tema dello scatto dell'età dopo l'aumento che l'Istat ha certificato di 5 mesi delle aspettative di vita farebbe portare, o porterebbe, diciamo, nel 2019 la pensione di vecchiaia a scattare a 69 anni, 67 anni, scusatemi, 69, diciamo che, vabbè, sto zitto, 67 anni, devo stare zitto su questa lapsus, a 67 anni. Alleva ha detto valutiamo anche il percorso lavorativo per valutare l'automatismo, lo scatto dell'età pensionabile. Non basta stabilire categorie, bisogna anche stabilire che cosa vuol dire che una persona sia stata per una certa durata continuativa, non continuativa, all'inizio, alla fine della propria attività lavorativa in quella posizione. Quindi c'è un tema che è non solo le categorie, ma anche la possibilità di valutare come, sulla base dei dati eccetera, il percorso lavorativo delle persone. Quindi diciamo, c'è un tema, diciamo, che va affrontato e presuppone quindi questa conoscenza individuale all'appartenenza a particolari categorie. Quello che posso dire è che è un tema che si può affrontare, ma va studiato sia da un punto di vista della misura da scrivere, sia nella fattibilità poi di implementarla. Allora, per quello che riguarda sempre il tema delle pensioni, in PD è disponibile a ampliare la platea per il cosiddetto APE sociale. Ancora il segretario Camusso della CGIL, arrivando in Senato sempre per l'audizione sulla manovra, ha detto potremmo passare il pomeriggio a studiare gli emendamenti sul rinvio. In questo momento, in riferimento alle pensioni, è più interessante per guardare gli emendamenti sul rinvio che non guardare le risposte che ci sta dando il governo. quindi non stiamo ottenendo risposta dal governo. Devo dire che qualcuno mi sta scrivendo: quando lei commentava le notizie negative del PIL faceva trasmissioni intere, adesso con la crescita a 2 minuti di numero e zero entusiasmo. No, ma perché? Siccome di solito la critica è che enfatizziamo troppo le notizie positive perché siamo filo governativi, schiavi dei padroni e quant'altro, adesso la critica è che siamo troppo mosci o mogi nel commentare. L'abbiamo detto in tutti i modi che il dato aggregato sull'andamento in corso dell'economia è migliore delle attese e si chiuderà l'anno a un livello di PIL ancora sotto la media europea, ma anche perché tutte le economie dell'area euro hanno rivisto in rialzo le loro previsioni, ma sicuramente più significativo, intorno all'1,5%. In tutti i modi l'abbiamo detto, mi sembra di essere stato così mogio nel raccontare il dato sul PIL. A un altro ascoltatore che dice: ah, adesso che il PD ha perso, asfaltato il suo padrone Renzi, ha asfaltato in Sicilia, quindi lei non ne parla. No, non ne parlo, nel senso che il dato è abbastanza conosciuto. Vi do, se volete, l'ultimo aggiornamento, ma insomma siamo ancora, mancano alcune sezioni, parecchie migliaia. Adesso vi do l'ultimo aggiornamento di sezioni scrutinate. Eccolo qua, 3.445 su 5.300. Nello Musumeci, centrodestra, aumenta anche un po' rispetto all'ultimo aggiornamento, al 39,3%. Giancarlo Cancellieri, 5 Stelle, 35,1%. Micari, PD, sotto, ampiamente sotto il 20%, che pur all'interno di una sconfitta veniva vista un po' come la linea del Piave per il PD, 18,8%. Claudio Fava, 6,2%. La lista civica di Roberto La Rosa, 0,8%. Ma insomma, che cosa, quale commento? Adesso sta iniziando la resa. Non ho detto che non è mio padrone, ma devo anche specificare che Renzi è mio padrone. Ma insomma, inizia la resa dei conti nel PD. Vedo già varie dichiarazioni, anche botte e risposta con il presidente del Senato Grasso. Prima c'era stata un'accusa da parte di Faraone che Grasso gli aveva fatti aspettare per 2 mesi, già in mattinata. Grasso ha risposto: è una scusa patetica imputare a me il risultato negativo in Sicilia, mio no alla candidatura, sto per motivi istituzionali. Ma mi sembra il dato molto netto. Se devo cercare la notizia, stante le ultime proiezioni, l'affermarsi del centrodestra è anche, c'è chi diceva che vi sarebbe stato un testa a testa, in questo caso 4 punti percentuali di scarto non sono poca cosa rispetto ai 5 Stelle. PD non dico che scompaia, ma sotto il 20%, visto che ahimè ricordavamo Caporetto, possiamo dire che quella è, era considerata la Caporetto del PD. Adesso arriverà anche la resa dei conti internamente, come più di un osservatore ha scritto in questi giorni. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo sul primo tema. Lo faccio magari dopo il meteo e la pubblicità, però vorrei dare un accenno. Abbiamo quella base afghana, ecco perché non c'entra nulla, ma è quella che è più evocativa rispetto a quello che sta capitando in Arabia Saudita. Ripeto, un'operazione che ha visto arrestare di 11 principi e 38 tra ex ministri, ex viceministri e uomini d'affari ha avuto una ripercussione immediata anche sul prezzo del petrolio. Operazione anticorruzione voluta dal re Mohammed Salman, detenuti in questione in alberghi a 5 Stelle di Riyadh, gli arrestati, bloccato l'aeroporto per evitare che i jet privati di questi, che sono in buona parte miliardari, potessero decollare. Le autorità religiose saudite appoggiano il re e l'azione anticorruzione avviata. C'è chi dice: attenzione, è anche un modo per eliminare gli avversari. Arrestato anche il principe miliardario saudita Al-Walid Bin Talal, uno degli uomini più ricchi al mondo e appunto azionista di Twitter e Citigroup, giusto per citarne due. Alberto Negri del Sole 24 Ore, buonasera Alberto. Buonasera a te e a tutti voi. Allora, il barile si è mosso sia WTI che Brent, perché l'Arabia Saudita è il primo produttore di petrolio al mondo. Devo dire che era già in tensione nei giorni scorsi prima dell'operazione, perché l'Arabia Saudita vuole mantenere il taglio alla produzione anche oltre il periodo deciso dall'OPEC. La domanda è molto semplice: operazione anticorruzione o modo così nemmeno tanto elegante per disfarsi di avversari politici? Ma sai, Sebastiano, il copione non è nuovo, ma l'intreccio un po' appassiona sempre, fa scrivere piumi di inchiostro. Nei regimi medio orientali, quando le cose non vanno bene, dentro o fuori, scattano le campagne anticorruzione o di rettifica per far fuori gli oppositori interni all'uomo forte del momento, che adesso in Arabia Saudita è il principe ereditario Mohammed Salman. Questa è la classica lotta di potere. Non ha niente a che fare con la modernizzazione del regno o quei discorsi fumosi sull'Islam moderato. Lui sta facendo fuori tutti, anche i modernisti come Walid bin Talal, no? Che ha partecipazioni in tutte le grandi imprese del mondo, o come altri imprenditori o altri principi del sangue. La verità è che vuol prendere in mano la situazione. Per due ipotesi, probabilmente. Quali sono le motivazioni? Che ci sia stato un tentativo di colpo di Stato o da reprimere o da prevenire. E l'altra ipotesi è che Re Salman, il padre, abbia incoraggiato il figlio ad accelerare la corsa alla successione. E quindi, ma che, ecco, perché i primi commenti che abbiamo visto, Alberto, erano insomma, c'è un tentativo di modernizzazione del paese, di eliminare le parti più radicali o comunque più fuori controllo rispetto alla casa regnante. In realtà quello che tu ci stai dicendo è che bisogna stare molto attenti a dare queste attribuzioni, diciamo, di modernismo, riformismo a un'operazione che forse persegue altri obiettivi? Ma non c'è dubbio. Basti pensare che quando qualche giorno fa è stata annunciata quella famosa città futuristica di Naom, no? E in prima fila nella conferenza c'erano anche gli uomini di Walid bin Talal, cioè uno dei principi che sono stati più eminenti, che sono stati arrestati in queste ore. Quindi in realtà la posta in gioco non è tanto il piano di modernizzazione, che può non piacere alla parte più conservatrice del clero wahabita, ma quanto proprio prendere in mano le redini del potere. Perché? Perché all'interno lui non è così legittimato alla successione come si può pensare. Ci sono dozzine di principi della sua generazione che ambirebbero a succedere al trono. E all'esterno, all'esterno l'Arabia Saudita ha dei gravi problemi. Ha perso la guerra indirettamente in Siria con tutto il fronte sunnita, non riesce a vincere la guerra in Yemen ed è sempre ferri corti con l'Iran. Un'ultima domanda, poi do anche delle risposte agli ascoltatori. A parte il fatto sì che in tutto questo è morto il principe saudita Mansour bin Mukrin in uno schianto dell'elicottero, qualcuno mi dice non sarà una coincidenza, non lo so, nel senso era venuto ieri nel tardo pomeriggio sud-ovest dell'Arabia Saudita, sono morti anche gli altri, alcuni funzionari che erano a bordo. Però Alberto, che cos'è che ha scatenato? Allora, può anche esserci solo una data senza nessun legame, ma che cos'è che ha scatenato adesso e non 3 mesi fa e non fra 6 mesi la necessità di dare via questa operazione anticorruzione più o meno mascherata? Prego. Diciamo che è stato preparato un terreno, perché Mohammed bin Salman è andato negli Stati Uniti, ha incontrato Trump. Suo padre, Re Salman, è invece andato a Mosca, ce lo ricordiamo, qualche settimana fa. Quindi una visita importante, perché ormai Stati Uniti e Russia, tra Iraq e Siria, sono ormai in condominio in Medio Oriente. E quindi in qualche modo i Salman, padre e figlio, cercano di accreditarsi fuori come legittimi uomini che hanno in mano le redini del paese. Quindi hanno preparato il terreno. Poi c'è una coincidenza interessante, che è stata sabato le dimissioni del primo ministro libanese Saad Hariri, che ha attaccato l'Iran e ha annunciato le sue dimissioni proprio a Riyadh. È chiaro che i sauditi in questo momento cercano anche di in qualche modo regolare i conti con Teheran. E quindi diciamo prima c'è stata una preparazione anche di carattere diplomatico, come tu ricordavi, e poi è scattata l'operazione anticorruzione. Come pensi che si svilupperanno le cose, per concludere Alberto? Cioè, questa operazione prende appunto tra 11 principi, 38 tra ex ministri, vice ministri, uomini d'affari, e si conclude qui? Ma non credo. Qui abbiamo due piani, un interno e un internazionale. Sul piano interno credo che arriveremo ad altre rese dei conti. È stato fuori, si è fatto fuori tra l'altro il capo della Guardia Nazionale, cioè insomma la Guardia Pretoriana del Regno. E lì è molto importante. Bisognerà vedere le operazioni militari in Yemen come verranno condotte, e quindi lì potrebbero saltare anche dei generali. E in secondo luogo l'atteggiamento di Trump sul fronte internazionale. Trump è stato l'uomo che ha denunciato, decertificandolo, l'accordo sul nucleare con l'Iran. I sauditi si sono sentiti molto confortati su questo. Mohammed vuole regolare i conti con Teheran, e in qualche modo da Trump passa anche la decisione se frenare l'alleato, dare via libera a un nuovo capitolo di conflitti in Medio Oriente. Staremo a vedere, però insomma è chiaro che la svolta, poi vi potranno essere altre iniziative, ma la svolta fortissima c'è stata, e appunto ne ha preso atto, diciamo così, anche il prezzo del petrolio. Lo dico a chi mi sta scrivendo, che si è appena messo in collegamento: è arrivato vicino ai $63 il Brent e vicino ai $56 il WTI, quindi comunque livelli più alti da 2 anni a questa parte. Grazie intanto ad Alberto Negri del Sole 24 Ore. Allora, molti messaggi sulla Sicilia. Il PD ha perso un sacco di voti, o meglio, uno mi scrive in maniera ironica, ha preso un sacco di voti perché le cose in Italia vanno a gonfie vele, come voi affermate quasi ogni giorno. Ma guardate che dire che il PIL va meglio delle attese non vuol dire fare un favore al PD, nel senso, lo direi, ma è un dato statistico, anche se governassero i 5 Stelle, la Lega, Forza Italia. Io invito anche a collegare quello che succede in Sicilia alla gestione dei singoli partiti della campagna elettorale. Non è un mistero per nessuno che il PD non abbia schierato in Sicilia nessuno, a partire dal segretario Renzi, nessuno dei suoi big o leader, che desse quasi per persa, senza speranza, quell'elezione, il che non vuol dire che poi non vi sarà una resa dei conti interna. Qualcun altro mi fa notare che, visto che a Musumeci c'erano molte liste collegate come singola lista, il più forte di tutti sarebbe 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle di Cancellieri, sì, però poi quello che conta è la coalizione. Adesso vedo l'ultimo aggiornamento, quando siamo arrivati a 4.000 sezioni scrutinate su 5.300, vi ridò l'ultimo aggiornamento se ce la faccio anch'io. E allora 39,3% Musumeci, 35,2% Cancellieri, 18,6% Micari, 6% Fava. Infatti alcuni ragionano anche sul, oltre che sulla debacle del PD, anche sull'assenza di un valore aggiunto nel centrosinistra, quindi la lista di Fava, che si posiziona agli stessi livelli delle ultime elezioni. Non c'è stato un aumento di voti per la fuoriuscita di parti del PD nella nuova lista. Questo mi sembra innegabile, il 6% insomma, è una cosa. Il testa a testa sì c'è, cerco di rispondere a vari messaggi, anche se 4 punti di scarto, pur avendo varie liste collegate, non sono poca cosa. Qualcun altro mi scrive: è inutile che cerchiate di scalzare Renzi, i militanti del PD, 1.300.000 votanti, hanno scelto Renzi come segretario, non sarà qualche opinionista incompetente a scalzarlo? Ma chi lo vuole scalzare? Ma tutti quanti tranquilli, qui uno prende atto di una sconfitta, così si deve chiamare, dovuta a vari motivi, vedremo cosa succederà internamente. Poi c'è un ragionamento che si farà anche dentro il centrodestra, perché poi lì sappiamo che c'era un dualismo, diciamo, Berlusconi-Salvini. Lasciate stare le percentuali, perché la Sicilia ha sempre avuto una forza del centrista e del centrodestra, ma al di là delle percentuali assolute è importante il raffronto con le ultime elezioni, insomma. Mi sembra innegabile il rafforzamento ulteriore del 5 Stelle col 35,2%. Andiamo sul meteo e la pubblicità. Nel frattempo noi ci occupiamo di cose più prosaiche, come questi papers che non si chiamano più Panama Papers, ma li hanno battezzati Paradise Papers, perché sono i soldi messi da VIP e non VIP, famosi e non famosi, con un'unica cosa in comune: quando possibile i soldi finivano nei paradisi fiscali. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. ...17:46 praticamente, devo ridare la linea al traffico fra un attimo, però due aggiornamenti sulla Sicilia. Allora, giustamente qualcuno mi fa notare, guardi che un conto sono i voti al candidato, un conto al partito. I 5 Stelle sono al 27%, Cancellieri al 35,2%, Musumeci invece ha molte più liste collegate, è al 39,3% in questo momento, Musumeci, Forza Italia e Berlusconi è al 16%, però insomma... Usiamo anche il voto, la percentuale complessiva di voti sul candidato per far capire i rapporti di forza. Fabrizio Micari al 18,6% lui, il PD, Micari presente al 13%, PDR, Sicilia Futura al 6% e via così. Fave al 6,1%, 100 passi per la Sicilia al 5%. Detto questo, non cambia nulla nel ragionamento che abbiamo fatto. Qualcuno mi dice, non pensavo che anche lei... fosse comunista, io che cosa le devo rispondere a sto punto? E invece non pensavo di beccare anche la regina Elisabetta in quelli che si chiamano Paradise Papers. Che cosa è successo? Sono state pubblicate dall'International Consortium of Investigative Journalists, e quindi un gruppo di testate a livello mondiale. La lista l'ha avuta per prima il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Nuovi documenti sui comportamenti fiscali di personaggi noti. Coinvolti appunto Bono, Madonna, Rainer di Giordania, il finanziere George Soros, un ministro di Donald Trump. Oltre 13 milioni e mezzo di documenti riservati. Poi analizzeremo nel dettaglio, però chiedo subito a Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore. Buonasera Angelo. Buonasera. Qual è la novità grossa dal punto di vista giornalistico? Cioè che ci fossero milionari in dollari o in euro che utilizzassero paradisi fiscali, l'abbiamo detto in tutti i modi, raccontavo il rapporto di Tax Justice Network, 21.000 miliardi di dollari, come il PIL di Stati Uniti e Giappone messo assieme, Oxfam che dice l'evasione sottrae 100 miliardi di dollari l'anno, una cifra che serverebbe 6 milioni di bambini, ma insomma non è una novità sapere che i milionari hanno utilizzato attraverso queste società che vengono anche citate nel rapporto e che si occupavano prettamente fossero di fare questo, cioè di portare i soldi nei paradisi fiscali. Quindi la notizia dov'è? Ma io credo che al di là dei nomi, no, che fanno notizia, che vanno sulle prime pagine dei giornali, davvero la novità sia essenzialmente questa. Questo nuovo caso dimostrerà, per chi non lo sapesse, che i paradisi fiscali non sono un'anomalia del sistema finanziario internazionale. Sono la normalità, sono una parte importante. La società che è stata hackerata è una società che lavora e ha fatto da consulente alle più importanti banche d'affari internazionali, Goldman Sachs, JP Morgan, alle più importanti banche come Credit Suisse, HSBC, ai più importanti gruppi nel settore dell'energia, dell'high tech e così via. Quindi si tratta di i gruppi che sono nella classifica Fortune 500, nell'indice della borsa di Londra, parliamo proprio dell'elite tra le società. Dopo i dettagli, 349-238-6666 per sms e whatsapp, qualcuno mi dice metta in classifica anche i tempi dello scrutinio in Sicilia, vabbè, insomma, ecco, anche qui mi sembra poca notizia che lo scrutinio sarebbe avvenuto in maniera molto lenta, lo sapevamo, come stavo per usare un'espressione siciliana, certo, 3.939 sezioni su 5.300, diciamo che le valutano attentamente le singole schede. Traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. ...17:52, qualcuno mi chiede, mi può dare anche gli aggiornamenti sulla provincia? Adesso ci sono provincia per provincia, vi dico rapidamente, fermo restando che la differenza è molto alta sulle sezioni scrutinate, che provincia di Palermo, provincia di Catania e provincia di Messina vedono un netto vittoria di Musumeci su Cancellieri. All'opposto, provincia di Siracusa, provincia di Ragusa, provincia di Trapani, provincia anche di Agrigento, in alcuni casi sono testa a testa Agrigento, ma Trapani, Siracusa, è netta l'affermazione di Cancelleri anche su Musumeci, così come a Enna è netta, a Enna siamo... tutte le sezioni scrutinate, Cancelleri 41%, Musumeci 34%, quindi le province con i due grandi centri urbani, Palermo e Catania, sono quelle in cui vince Musumeci. Nelle province più piccole con meno centri urbani si afferma di più invece Cancelleri. Devo dire che l'unico dato che non cambia né dalle province né dalle grandi città è la sconfitta obiettivamente di Micari. Allora, da questo punto andiamo invece ai Paradise Papers. Angelo Mincuzzi, tu dicevi, insomma, si conferma come un dato strutturale. Certo, però vedere che vi sono anche molti politici oltre che cantanti della regione d'Inghilterra, ma ne frega meno, ti dà l'idea che questa cosa potrebbe non finire qui, nel senso che quando poi tiri in ballo alcuni ministri, nel caso specifico anche di Trump, il segretario al commercio Wilbur Ross, ma non solo. Insomma, l'ipotesi che questi Paradise Papers non abbiano solo un elemento per oggettivizzare il fatto che ci sono miliardi, centinaia di miliardi nei paradisi fiscali. Beh sì, c'è un problema politico. Per esempio negli Stati Uniti, come hai detto giustamente, ci sono dei consiglieri di Trump che sono coinvolti in questa operazione dei Paradise Papers. E questo sarà un problema politico nel momento in cui gli Stati Uniti sono alle prese con il Russia Gate, ma anche in Gran Bretagna c'è l'ex tesoriere e uno dei grandi finanziatori del Partito Conservatore, che, il cui nome è in queste carte. Certamente sono cose che non sono illecite, cioè, per carità, questo diciamolo, no, non sì. È un reato avere una società offshore. Per un politico chiaramente la questione è molto più delicata. E anche per la regina, se vogliamo fare. Poi c'è qualcuno che dice Bono Vox predica bene per il terzo mondo, sì, anche questo per l'immagine di un cantante, lo possiamo dire, la famosa battuta, non dico gauche caviar, la sinistra caviale, ma il cuore a sinistra e il portafoglio a destra, insomma, ci sta bene anche per Bono Vox. Beh, sicuramente è un riflettore acceso su una realtà poco conosciuta. Volevo aggiungere soltanto sì. Una cosa, per l'Italia ecco. La cosa non è ancora iniziata. Nel senso perché ti stavo che per chiedere, ma i nomi degli italiani? I nomi degli italiani verranno resi noti domenica. Oh, quindi Sunday, bloody Sunday. Aspetteremo una settimana e poi vedremo. Magari mettiamo gli U2 dopo, vediamo se abbiamo qualche base gli U2. Grazie Angelo Mincuzzi, no lo dico grazie perché qualcuno mi diceva, ma insomma i nomi degli italiani, no, sono i primi, stanno arrivando, non dico col contagocce, ma è la punta dell'iceberg, come hanno detto gli stessi cronisti. Gli italiani arriveranno, come è già avvenuto con i Panama Papers, non vengono dati tutti gli elementi subito, diciamo a grappolo, e per cui, come ricordava Angelo Mincuzzi, gli italiani dovrebbero arrivare come nomi domenica e staremo a vedere chi vi sarà inserito. Grazie anche Angelo Mincuzzi. Grazie. Ecco. Vabbè, questo non vuol dire che uno debba criticare gli U2, eh. Però era dedicata a Bono Vox e visto che domenica escono i nomi degli italiani che hanno i soldi nei Paradise Papers, Sunday Bloody Sunday, andiamo su GR24, Sunday Bloody Sunday anche per il PD, comunque quella di ieri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi dei comuni italiani. Vi do anche, chiedono a darvi l'aggiornamento sulla Sicilia, visto che la diciamo, rapidità nello spoglio elettorale ci permette di continuare a commentare le sezioni e complessivamente le province anche alle ore 18:10. Minuti, è molto diversa la situazione, a seconda, ripeto, alcune province hanno già scrutinato tutto, altre sono quasi lì, indietrissimo Catania, siamo ancora a metà, però, mentre Enna le ha già scrutinate tutte, anche Palermo indietro, vabbè, sono città un po' più grandi, 870 su 1184 sezioni scrutinate, non cambia, sto tornando al dato complessivo, dicevo non cambia il risultato di fondo, quello che vi stavamo dando dall'inizio. Allora vediamo adesso, 39, siamo a 4100 sezioni, 39,6% Musumeci, 34,8, quindi restano più o meno 5 punti percentuali di differenza con Cancelleri. Micheri stabilmente sotto il 20% e anche il 19% al 18,6%, Fava al 6%, quindi diciamo sostanzialmente forse si è un po' ampliato la distanza tra Musumeci e Cancelleri, anche se come dicevamo prima, attenzione, le province sono molto diverse, ce ne sono alcune soprattutto nella parte sud-ovest che vedono la prevalenza dei 5 Stelle e quindi di Cancelleri, altre penso in primis a Palermo e Catania, ma anche Messina, dove prevale in maniera netta invece Musumeci. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo adesso alla borsa e poi anche a cercare di capire come mai alcuni comuni italiani rischiano il crack, notizia di ieri del Sole 24 Ore, perché non riescono a riscuotere i tributi dovuti. Qualcuno mi sta dicendo ma era bella l'idea, di visto che hanno beccato Bono Vox nei Paradise Paper, I can't believe the news today. Vabbè, facciamoli sentire, non posso credere alle notizie di oggi. Eh sì, questo vale perché Bono è tra i nomi più celebri della lista dei Panama Papers di cui abbiamo appena parlato. Sunday Bloody Sunday l'abbiamo dedicata agli italiani, visto che la lista degli italiani che hanno soldi nei paradisi fiscali arriverà e verrà pubblicata dal consorzio giornalistico, appunto Consortium of Investigative Journalists, domenica, quindi sarà un Sunday Bloody Sunday, per dirla con Bono, che già ha avuto il suo Sunday Bloody Sunday per gli italiani. Andiamo sulla borsa oggi, ma possiamo anche tenere gli U2 sotto. Invariata Milano, in meno 0,20 Parigi, invariata Francoforte, invariata Londra, invariata l'America, insomma leggermente invariati gli indici. Tra i titoli, Campari perde il 2,55%, Biper l'1,60%, Prismian l'1,30%, Buzzi Unicem meno 1,20%. Andiamo su chi ha guadagnato oggi. Yux Net-a-Porter più 3,20, Saipem più 1,70, ST Microelectronics più 1,30 come Italgas, Banca Generali più 1,1, Luxottica più 0,80 come Eni e Ferragamo e anche Tenaris, Poste Italiane più 0,6, Azimut più 0,5%. Euro su dollaro 1,16,05%. 0,5% e basta. Centesimi, Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, mercati piatti, di petrolio abbiamo parlato in apertura, le tensioni dopo le retate in Arabia Saudita. Andiamo sui titoli, Yux Net-a-Porter più 3,20 da un lato, e invece abbiamo visto calare Campari del 2,50%. Sì, esattamente. Hughes, Netta Porté e Campari sono state, diciamo, la migliore e la peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione italiane, ed entrambe pubblicheranno i risultati domani. Insomma, che oggi hanno tenuto banco appunto la questione petrolifera e poi gli occhi puntati anche sul settore high tech, con questa mega operazione che si potrebbe realizzare negli Stati Uniti, e quindi diciamo che gli altri titoli sono andati un po' in ordine sparso con gli occhi puntati un po' alle trimestrali, perché entra con questa settimana, soprattutto a Milano, è entrata nel vivo la stagione dei conti, verranno pubblicati i risultati del terzo trimestre di tutte le società e di tutte le big di Piazza Affari, e quindi diciamo, in assenza di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in una giornata comunque povera, anche abbastanza povera anche in Europa, di indicazioni macroeconomiche, diciamo si è andati un po' a guardare ai singoli andamenti dei titoli, anche alle stime, alle attese, quelle che sono un po' le previsioni del mercato sulle singole società. Allora, andiamo avanti con i titoli. A chi mi dice, guardi che Sunday Bloody Sunday si riferiva a un evento luttuoso nell'Irlanda del Nord, beh, lo sappiamo, grazie. Lo sappiamo, c'è anche un film bellissimo su questo, La Domenica di Sangue, in cui i paracadutisti britannici spararono sui civili che stavano marciando inermi, uccidendo donne, bambini e adulti. Non volevamo sicuramente scherzare né offendere la memoria della Domenica di Sangue in Irlanda del Nord, però obiettivamente era una palla alzata, visto che Bono è finito nella lista dei Paradise Papers e domenica prossima arriveranno gli italiani. Andiamo avanti comunque con Flavia Carletti. Al di là appunto dei migliori e peggiori, B per meno 1,60%, dicevamo. Allora, ERG invece è interessante, è chiaro che c'è l'effetto petrolio anche su Eni più 0,80 e su Saipem più 1,70, ma ERG? Ha chiuso, fuori dal FTSE MIB, ha chiuso con un rialzo del 2,52% ed è sui massimi da 10 anni. E la notizia, diciamo, di cui ha beneficiato il titolo è che ERG ha venduto al gruppo API la rete di 2600 stazioni di servizio a insegna Total ERG, per un importo, diciamo, l'importo complessivo che ERG incasserà è circa di 273 milioni di euro, e si parla di una plusvalenza lorda per la società di 70 milioni di euro. E quindi diciamo il mercato si è un po' interrogato su quello che potrà essere il destino di questi fondi, e alcuni analisti hanno avanzato l'ipotesi che possa esserci una distribuzione di dividendo straordinario, che non era ufficialmente incluso nel piano di ERG, però era stato lasciato intendere come una, diciamo, una possibilità concreta da parte dal management in alcune occasioni, e quindi si ipotizza addirittura che possa essere magari distribuito il 50% di questa plusvalenza. Ancora andiamo avanti per quello che riguarda i titoli con variazioni percentuali più basse, Luxottica, Eni abbiamo detto, Ferragamo abbiamo detto, devo dire che si è mosso un po' anche Ferrari meno 0,60, Unicredit mezzo punto percentuale di ribasso come Leonardo, e appunto Fiat, Chrysler migliori e peggiori. Gabetti più 11,60, Classe Editori più 10,70, Edes più 9,70, fronte opposto Giglio Group meno 4,40, la Lazio meno 4,40, WM Capital meno 4,30%. Si è parlato oggi, tra l'altro, di mondo delle assicurazioni, quindi anche di titoli che poi sono quotati sul listino, nel corso dell'appuntamento classico 19ª edizione dell'annual assicurazione del Sole 24 Ore. Sentiamo la presidente dell'ANIA, Maria Bianca Farina, al microfono della nostra Livia Zancaner, ricordare qual è la sfida più imminente per il mondo assicurativo. Intanto ringrazio anche Flavia Carletti di Radio Corriere Sole 24 Ore. Una delle sfide più importanti è sicuramente quella dell'innovazione, innovazione a tutto tondo, anche tecnologica, ma non solo. Cioè le compagnie di assicurazione oggi sono al punto di dover cambiare il loro modello di business e il modo di interazione con i clienti e di comunicazione in genere. Questo perché stanno cambiando i rischi in base a trend di grande spessore, stanno cambiando le esigenze dei nostri clienti, sempre più sofisticati, e sta cambiando il mercato, quindi la competizione nel mercato. Tutto questo obbliga in tempi sempre più brevi a un cambiamento veramente importante del settore assicurativo. Interessante anche quanto ha spiegato Davide Corradi, senior partner di Boston Consulting Group, sempre al microfono della nostra Livia Zancaner, facendo notare che negli ultimi 5 anni il comparto assicurativo è quello in borsa che ha creato più valore e quindi ha dato più soddisfazione agli azionisti. Negli ultimi 5 anni nel mondo 100 euro investiti in assicurazione hanno dato agli azionisti 16 euro all'anno, mentre invece negli altri settori 14 euro all'anno. Poi all'interno del settore assicurativo chiaramente ci sono quelli più performanti e quelli meno performanti. I più performanti hanno restituito dei 100 euro investiti ogni anno, 25 euro ogni anno per 5 anni. Per creare però valore nel lungo termine c'è un fattore fondamentale che è quello della crescita, che deve essere realizzato. Nel nostro paese, in Italia, ci sono sicuramente ampi spazi per farlo. Le assicurazioni non sempre riescono a esprimere tutto questo valore per tanti motivi, a mio parere quello principale è una mancanza di innovazione profonda nella distribuzione. Ora, facendo lo stesso esempio che faceva Corradi sui 100 euro investiti, mutatis mutandis, potremmo dire che 100 euro dovuti come multa al comune sostanzialmente di Isernia, il comune di Isernia riesce a pigliarsi neanche un euro, 60 centesimi. All'opposto, se avessi preso una multa da 100 euro con il comune di Forlì, di Brindisi, di Massa Imperia, il 99 euro se li intascherebbe il comune di Massa Imperia. Fronte tributi, le tasse comunali, beh, se devo pagare 100 euro di tasse comunali ad Avellino, in realtà il comune di Avellino riesce ad averne solo 46 dei 100 euro che gli devo. Media nazionale invece è 73 euro, ma se abitassi a Mantova o a Genova, dei 100 euro di tasse comunali che devo il comune riuscirebbe a incassarne almeno 94 euro o 92 euro nel caso di Genova. Le tariffe, beh, se abito a Treviso il 93 euro li devo pagare le tariffe su 100 che devo, se dovessi abitare a Reggio Calabria il comune non riuscirebbe a riscuotere nemmeno 10 euro, un po' meno 9 euro e mezzo dei 100 euro che gli devo. E poi ti chiedi perché alcuni comuni, non solo quel, non Roma, ma anche Torino e Napoli, insomma, hanno i conti talmente in dissesto che sono a rischio default o sarebbero già falliti se fossero stati dei soggetti privati. C'è una bellissima pagina sul Sole 24 Ore di ieri: grandi città a rischio di default, di fallimento, flop, riscossione su multe e tasse. Il mitico Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera, con noi. Buonasera, grazie per il mitico. Beh, insomma, la mitica è un'altra. Devo dare il traffico, sì, lo so che devo dare il traffico. Dopo però il traffico vorrei capire con te come mai la riscossione è così... diciamo diversa tra area geografica e area geografica, ma soprattutto nemmeno quando un comune è a rischio crack riesce a aumentare il tasso di riscossione delle multe, dei tributi, delle tariffe, cosa che comuni che forse anche per questo non sono in crack finanziario riescono a fare tranquillamente. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Dopo il traffico la risposta. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, la risposta a Gianni Trovati è soprattutto perché non vengono commissariati i comuni che riescono a riscuotere pochissimo, meno del 10%, e hanno i conti a rischio crack. La risposta è in una sorta di avvitamento, nel senso che i comuni più in difficoltà danno servizi peggiori. Servizi peggiori danno meno voglia ai cittadini di pagare le tariffe, i tributi e così via, e quindi si abbassa, diventa più difficile la riscossione. Ma qui rientra in gioco l'inefficienza della macchina che non riesce a pescare quello che si perde per strada. Un dato dice tutto: Napoli è in piano di rientro da un po' di anni. Il piano di rientro è un piano che il comune deve fare per evitare il dissesto. Beh, dall'ultimo controllo si è visto che degli arretrati dei tributi e delle tariffe che il comune di Napoli avrebbe dovuto riscuotere è riuscito a incassare solo l'1,7%. Quindi sono state alzate le tariffe e le aliquote dei tributi. Pazzesco. Al massimo, ma in pochi le pagano. 1,7 fa ridere. Molti ascoltatori mi dicono, ma non è che in questi comuni, oltre che una difficoltà di fare oliare la macchina, ci sia un problema di legami, di consenso, di amici degli amici, di consenso sul territorio? Perché insomma io capisco che tu dici, se il servizio è scadente hai meno voglia di pagarlo, ma sulle multe, se io passo col rosso, parcheggio sulle strisce, non è un problema servizio efficiente o non efficiente, devo prendere la multa. Io sono, purtroppo non ho mai parcheggiato sulle strisce, ma insomma qualche multa l'ho presa per divieto di sosta. Porca miseria, non è possibile che la stessa infrazione a Milano tu sia sicuro di beccarti la multa, se no va, arriva la cartella e devi pagarla, e invece se abitassi a Catania il 6% viene riscosso. Lì non c'è un problema di servizio, no? A Roma il 25%, voglio dire, sono realtà molto grandi, parlerei più di un clima generale che, diciamo, clima, così, induce a non essere troppo rigorosi con i pagamenti, perché se tu hai avuto un'esperienza in cui hai preso una multa, non l'hai pagata, nessuno ti ha chiesto. Ma ho capito, allora lì il problema è che non sei capace di fare il comune, nel senso. Il problema è che non sei capace di fare la riscossione, e la riscossione è uno dei termometri più immediati del tasso di efficienza della macchina amministrativa. E allora perché non commissariarli? Cioè, se tu non riesci neanche a riscuotere le multe, e alla fine hai i conti, hai le pezze, diciamo, per essere buoni, ma hai i conti a rischio fallimento, ripeto, nel privato probabilmente saresti già fallito, perché non commissariarli? Perché c'è un problema politico, evidentemente. No. Noi abbiamo cercato di mettere una pezza con il decreto Monti del 2012, chiedendo appunto il piano di rientro, cioè io non ti commissario, ma tu mi prometti che in X anni rimetti i conti in ordine. Come li rimetti in ordine? Alzando le aliquote. Il problema è che se non le riscuoto, poi quei tributi sono tutti teorici. Il riordino è teorico, esatto. Certo, io e dico, per i prossimi tre anni incasserò 100 perché ho alzato le aliquote, peccato che poi tu riesci a riscuotere 10 e tutto il gioco è delle tre carte. È un bubone che abbiamo rimandato e che adesso, come mostrano i numeri, sta venendo al pezzo. Sì, altri mi scrivono è tutto per motivi di consenso, di voti, ho capito, però poi paga pantalone, perché quando i comuni come Catania, ricorderete, ma non solo, anche Roma, sono falliti, poi alla fin fine i soldi si trovano perché garantisce lo Stato, no? Cioè questo è il problema, perché fosse un problema di consenso io ti direi va bene, così poi quando il comune fallisce tu perdi consenso, in realtà no, perché arriva pantalone e paga, quindi l'amministratore, soprattutto nel sud, qui non ho problemi a dirlo, tariffe Reggio Calabria, Catanzaro, Trapani negli ultimi tre. Devo dire che c'è anche Alessandria sulle multe, solo il 10%. Oh, tutti a Alessandria a parcheggiare. Adesso scherzo, ci mancherebbe, ma 10%! Vuol dire tutti a Alessandria nel traffico, mentre non andate a parcheggiare a Forlì, Brindisi, Massa, Imperia, perché arrivano al 99% le discussioni sulle multe. Grazie intanto anche a Gianni Trovati. Andiamo a conclusione, do l'ultimo aggiornamento, mancano però molto Palermo e Catania, dove è avanti nettamente Musumeci, questo mi fa dire che probabilmente il voto di Musumeci, la percentuale di Musumeci potrebbe anche salire, siamo a un distacco che abbiamo visto anche prima, per quello che riguarda, ci sono circa 5 punti di differenza per quello che ha a che fare con Musumeci e Cancellieri, quindi 39,4 a 34,4. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berrigioni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.